Ed eccoci qui con una nuova puntata degli Spacciaserie. Ci sei, Tommy? Ci sono, Piero, sempre qui, anche da prima. Buonasera a tutti. Opla. Quindi, per tutti coloro che non fossero collegati prima a Monoserie, ridiciamo per l'ennesima volta, e questa volta con la pronuncia esatta, di cosa parleremo questa sera, di quale serie TV. Dillo tu. Allora, questa sera parliamo di Eli Stone. Perfetto, Eli Stone. Diciamo, ora, io non saprei come introdurlo, perché è un po' complicato all'inizio entrare sempre. Diciamo che si parla di Eli Stone, no? Ok. Eli Stone è un avvocato, che si chiama proprio Eli, che sarà, boh, Eliseo, non lo so. Stone il cognome, sarebbe no, tradotto... Si chiama Eli Stone, punto. Io lo chiamerei Eliseo o Pietra. No? Non si può chiamarlo così. Ora. Sì, sarebbe una classica serie da smarmellamento, però... Non è vero. Non si smarmella tanto in Eli Stone, dai. No, ma se lo chiamassimo Eliseo o Pietra... Ah, in quel senso sarebbe troppo italiano. A proposito di Boris, posso darti una notizia che nemmeno tu sai? Forse, non mi ricordo se te l'ho detto, però dai. Forse sono riuscito a ottenere i biglietti per andare a vedere l'anteprima di Boris. Notizione, non gliene frega niente nessuno, però spero non sia, non sia tutta una bufala, però lunedì dovrei andare a Firenze, a Campi di Bisenzio, in un cinema sperduto a Firenze, e andare a vedere l'anteprima. Speriamo bene. Io conto molto su questo, su questo event. Tu vai a Campi Bisenzio, poi cosa succede? Chi lo sa? Sì, nel senso, chissà se torno a casa, chissà se trovo un passaggio per rientrare. Insomma, resterò accampato lì da qualche parte. Se non mi vedete giovedì è per questa ragione qui, sono rimasto a Campi Bisenzio. Tornando invece a bomba a Eli Stone, stavo dicendo che lui è un avvocato. È un avvocato che all'inizio della serie è cinico, spietato, è un affarista, pensa soltanto alla carriera, e poi qualcosa cambia, no? Ma come dice lui stesso, giusto per definire il suo personaggio iniziale, aiuta a fare a chi ha già tanti soldi, aiuta a diventare più ricco chi è già ricco. Ecco, tu hai citato come dice lui. Ora, io ho estratto dalla prima puntata della prima stagione la sua, diciamo, autopresentazione, e sono pronto a mandarla in onda, quindi tensione che sta per arrivare. Eli Stone con la sua presentazione. Ciao, sono io, Eli. Ho molte cose da dire. Sono un avvocato, lavoro per lo studio Weathersby Posner & Klein a San Francisco. A meno che non possediate un'enorme compagnia che ha rovinato qualche piccolo individuo, non avrete sentito parlare di noi. Vediamo, avvocato, a San Francisco. Ah, vi ho detto che da poco ho scoperto che potrei essere un profeta. Sì, sono rimasto scioccato anch'io. Fino ad oggi, la mia fede in un potere più alto si limitava alla devozione verso le tre sacre A. Armani, accessori e la mia preferita. Ambizione. Ok, forse non ero esattamente un santo. Ma non mi importava di non essere più il ragazzino idealista di un tempo. Ero troppo occupato ad essere quel tipo. Sapete, il tipo che vedete in un ufficio o al ristorante e che vi fa pensare, quel tipo ha tutto. Io pensavo di avere tutto. E poi ho sentito la musica. Ecco, ora, Tommy, non so se sei rimasto lì, ma tu cosa ne pensi di questo fatto che lui sente la musica? Tu l'hai vista, no? Sì, l'ho vista. No, allora, spieghiamo un po' questo fatto che lui sente la musica. È un'allucinazione sonora. Sì, cioè, ma oltre che sonora anche visiva. Cioè, lui sente e vede delle cose. Esatto. È un, diciamo, un Giovanni d'Arco dei nostri tempi, volendo fare un po'. Sì, lui ha delle visioni. Una cosa un po' strana, perché dicevi, cioè, avrà quanti anni avrà? 30 anni, una trentina, no? 30 anni circa, ecco, sì. Lui dice 30 anni di vita tranquilla, non ha mai avuto visioni, adesso di punto in bianco ci fanno una serie TV sopra di lui e lui ha le visioni, no? Funziona, sì. Perché cosa dice la scienza? La scienza cosa dice? La scienza dà la causa di tutto questo ad una grave... Ti interrompo. No, non volevo dirti questo. Allora, volevo usare questa cosa qui per introdurre il personaggio che rappresenta un po' la parte scientifica, la scienza nella serie, che è appunto il fratello, giusto? Come si chiama il fratello? Vediamo se hai studiato. Allora, il fratello... Allora, il nome lo so. Ah, Stone di cognome, chiaramente. Nathan di nome. Bravissimo, Nathan. Allora, adesso io ti mando Aurora, uno spezzone su Nathan. Attenzione che arriva. Un attimo soltanto. Se lo costruisci, lui tornerà. Non è divertente, Nate. Sì, era quello che temevo. Non si mette bene, fratellino. Hai due specie di chiappe nel cranio che ancor di più ti portano a ragionare con il sedere. A parte il leggero trauma cranico in seguito alla caduta, in termini medici sei quello che noi definiremmo sano. Non posso essere sano. Nel mio salotto c'era George Michael. Non hai alcun problema medico, è solo stress. Lo stress ti imbianca i capelli. Non fa sì che leggendarie pop star inglesi si mettano a cantare sul tuo divano. Sei la solita testa di rap. Se la tua vita fila liscia, trovi un modo per rovinarla. Chiama mamma, d'accordo? Che cosa devo fare se George Michael ritorna? Chiedigli un autografo. È eccezionale, no? A questo punto c'è lui che dice a quelli: se trovi George Michael di nuovo nel tuo salotto, chiedigli un autografo. Non fai una grinza tutto sto ragionamento, no? Però appunto lui ha citato George Michael perché George Michael è una specie di guest star della serie TV. Vengono spesso usate le sue canzoni, viene usata la sua presenza sin dal primo episodio. C'è un intero episodio che è basato su una sua canzone e sulla sua presenza, di cui dopo parleremo. Non so se tu ci sei arrivato, forse no, forse sì, forse non te lo ricordi. Ancora no. Ci sei arrivato. Che altro possiamo dire? Potremmo dire anche un'altra cosa, che spesso, e soprattutto nella versione dei titoli inglesi, delle puntate, dei vari episodi, spesso i titoli inglesi riprendono il titolo di alcune canzoni di George Michael. Esatto. Proprio per dire quanto sia legata la serie anche alla pop star. Non è una coincidenza, ecco. Sì, non c'è niente di slegato a volte nella scelta del titolo, nella scelta del personaggio che fa da liaison di tutta la serie TV. E a proposito appunto della prima puntata, del senso che un po' si vuole far assumere a queste allucinazioni, a queste visioni che ha Eli, la canzone che viene usata come colonna sonora di queste visioni è appunto Fate di George Michael, che io direi adesso, se tu sei d'accordo, di andare ad ascoltare. Che dici? Io sono d'accordissimo. Perfetto. Allora, soltanto un attimo per aggiustare i volumi, preparare la canzone e darvi un buon ascolto con George Michael, Fate. I gotta have faith. E rieccoci, siamo di nuovo qui in onda. Eccoci. Eccolo qua. Benissimo. Dunque, adesso, volendo tornare a parlare di quello che dobbiamo parlare, cioè quello che il nostro mestiere, cioè le serie TV, cioè i Lifestone per questa sera. Abbiamo appunto visto qual è il punto di vista del fratello, che è un medico e un neurologo, e appunto vedendo la sua TAC non riscontra nulla di eccessivamente di anormale, e quindi liquida il caso con se torna se rivedi di nuovo George Michael fatti fare un autografo. Adesso però lui ha dei grossi problemi con queste visioni, perché pensate, allo studio lui vede le persone muoversi, cantare, e comincia a vedere delle apparizioni, magari si trova in guerra oppure vede un coro che canta, comincia a gettarsi, salta di qua e di là vedendo delle cose che per lui sono reali ma che per gli altri non lo sono, e quindi gli altri lo guardano in maniera strana, cioè è abbastanza... Diciamo che non è molto normale vedere una persona che si mette a saltellare di punto in bianco a urlare, a ballare, o che si infila sotto al tavolo, ecco. Appunto, e per questo problema qui, per risolvere questo suo problema esistenziale, visto che la scienza normale, la scienza comune, non ha trovato spiegazione al suo male, si rivolge a un dottore olista, a uno che ha studiato una scienza olistica. Cosa vuol dire scienza olistica, Tommaso? Ma vuol dire letteralmente, in pratica, è una scienza non proprio riconosciuta. Cioè, che non si basa solamente su, o meglio, che non si basa su dati sperimentali, ma più su pratiche e su misticismo, ecco, mettiamola un pochino così. Esatto. Nel nostro caso, appunto, Eli si rivolge al dottor Chen, giusto? Consigliato dalla sua assistente Patty. Dalla sua assistente, da Patty, sì. Ecco, e io manderei questo breve spezzone, che ci fa un po' capire che genere di dottore è questo qui. Allora, soltanto un momento. Non è stato facile trovare il suo studio. Non lo dico nel mio interesse, ma una piccola insegna farebbe miracoli. Persone che hanno bisogno trovano, dottor Chen. Ora rilassati e chiudi occhi. Ah, rilassati e chiudi gli occhi. Tu intelligente, tu sei bravo avvocato. Dici che George Michael significa molto per te. Io ho detto che George Michael cantava nel mio salotto, non che avesse un significato. Sì, perché tu non ricordare. Non ricordo perché non significa niente. Tu deve fare pace con George Michael. Forse dovrei chiamare il suo agente. Dottor Chen adesso aiuta tua memoria. Ecco qui. Dottor Chen aiuta tua memoria. E poi quello che succede è che gli pianta un ago nel centro della capoccia e lo rispedisce alle sue visioni, o comunque a esplorare quello che è il senso profondo del messaggio che gli arriva, diciamo, in un certo senso, no? Sì, cioè in pratica gli fa ritrovare quelle parti di memoria che lui aveva un po' dimenticato, tutte quelle cose che un po' uno tende a dimenticare poi nel corso del tempo. Esatto. E una di queste cose che lui ha un po' dimenticato, o comunque ha cercato di rimuovere, è il rapporto che lui aveva col padre. Esatto? Esattamente. Perché il padre... Perché, vabbè, il padre era molto... era un tipo un po' particolare. Sì, cioè, diciamo era che ubriacone. Era un ubriacone. Almeno, a quanto... quanto se ne sa, era un ubriacone. Esatto. Per adesso, almeno. E quindi magari faceva fare figure alla famiglia, ai figli, alla moglie, che nel senso si ritrovavano lui ubriaco per casa, per strada, diceva cose, urlava, vedeva degli oggetti, e quindi la gente, diciamo, era tentata di allontanarlo, di essere scostante con il padre. Certo. E per lui comunque era motivo di vergogna, cercava di non presentarlo ai suoi amici, di avere una vita che fosse lontana da quella che era la sfera di influenza del padre, il bar del padre, il treno che prendeva, queste cercava di essere lontano, di non averci rimanendo molto a che comunque fare. Affezionato al padre, cioè per quanto poi lo può detestare, in vari punti si vede che comunque rimane anche affezionato a questa figura. Sì, rimane affezionato, anche se ha comunque vergogna profonda del fatto che lui si riduca in quella maniera lì. Sì, sì, quello sicuramente. Ecco, e intanto, mentre noi parlavamo del padre di Eli, è arrivato il padre della radio, della bicicletta, e qui tra noi... sono il padre della radio. Sempre queste presentazioni... Ciao, padre della radio! Prego, prego, si segga pure, sì, presidente. Vorrei un tè, grazie. Ora, il tè non possiamo produrlo qui senza la materia prima, senza un fornello, senza dell'acqua, senza una bustina di tè. Vabbè, allora. Presidente, mettiamoli dei fornelli per favore lì in studio. No, no, quello ci manca, poi chissà, un incendio in radio non vale la pena. Come no? Guarda... Ciao a tutti, amici e amiche. posizionati le cuffie sulla capoccia. Posiziono le mie cuffie sulla mia capoccia. Ecco. Per dinci, c'è tutto un mondo qua dietro. Sì, c'è anche della musica. È eccezionale, vero? Che bello, ma dove siamo? Siamo su Radio Cicletta. Su radiocicletta.it. Sento addirittura Tommaso. Ciao Tommaso. Ciao Leonardo. Incredibile, Tommaso oggi, ora che è l'ultima puntata da Marsiglia, si sente addirittura bene, senza saltellamenti, senza nulla. Come mai, Tommy? Cosa hai fatto di bello? E niente, probabilmente la gente è andata un attimo in vacanza e non c'è nessuno collegato alla rete. Sì, c'è lo spring break anche in Francia. Intanto Casapanco dalla chat esulta alla tua venuta. Ciao Casapanco. Casapanco, ricordiamo, il sosia di Leonardo. Ciao mio sosia. Va bene. Allora, noi stavamo per mandare uno spezzone relativo al padre di Eli Stone. Ma di che si parla questa sera? Perché tu sai che stiamo parlando di Eli Stone, vero? Certo, lo so, me l'hai detto diversi giorni fa. Ieri. Sì. Ecco, appunto. Va bene, mandiamo questo spezzone. C'era una voce questa volta. Era quella di mio padre che è morto. Genitore morto, ago diverso. Lei non capisce. Mio padre era un ubriacone che ha distrutto tutto quello che ha toccato. È l'ultima persona che vorrei ascoltare in questo momento. Non buono odiare persone morte. Rilassati. Pensa solo bei ricordi di padre. Dottor Chen adesso aiuta figlio ingrato. Forza, Eli! Sbrigati! Tua madre mi ha detto che hai vinto un premio a scuola. Scusa se io non c'ero. Perché eri troppo ubriaco. Tieni. Un regalo per festeggiare la tua vittoria. Le vette del Panciuli sono in India. Ho sempre voluto vederle. Un giorno ci andremo. Per Eli. Così potrai ricordare. Ricordare che cosa? Che sei destinato a fare grandi cose. Che andrai in posti bellissimi. Che dirai parole ispirate. Che aiuterai la gente. Papà, stai bene? Sì. Sì, certo, ragazzo. Io mi devo fermare ancora in un posto. Di a tua madre che arrivo tra poco. C'è il dramma, veramente. Sì, noi l'avevamo previsto proprio perché strano, al tuo arrivo fosse questa tragedia. Quando arrivi tu ci sono sempre cose sconce, di solito sono sempre serie quasi. Invece oggi no, questa qui non ha niente di sconcio. No, c'è solo il dramma della cosa, del dolore. Chi è questo padre che si sente male ed è ubriaco? Esatto. Viene presentato nei ricordi di Eli, che è il protagonista, questo avvocato di cui stavamo dicendo, no? Sì. E viene presentato come un ubriacone, uno che ha sempre dato fastidio alla famiglia, nel senso che gli faceva fare figure di cacca. Gli faceva. È perché, capito, essendo sempre ubriaco, magari si metteva a urlare in mezzo alla strada, oppure prendeva e sparava contro fuori dalla finestra, perché era preda di queste visioni dovute all'alcol, spiega Eli. In realtà. Il padre. Il padre le visioni dell'alcol, il figlio l'embolo. Il figlio ancora non ci siamo arrivati, stavamo. È il prossimo spezzone, non mi rovinare tutto. Non mi rovinare tutto quando. Allora, presidente, spoiler. No. Spoiler. Ecco, spoiler. Non ricordavo più qual era il tasto spoiler. Tra l'altro, poi un quesito da porle riguardo al nostro magnifico programma su Graziella. Ma glielo faremo dopo fuori onda. Grazie. Dunque, che stava il padre. Le visioni notturne, ecco, dai fumi dell'alcol. Lui adesso, grazie al dottor Chen, dottor Chen, che è velo cinese, che parla tutto così. Cinese nel senso che è un velo cinese. Che è un vero cinese. Ah, ok. O almeno così sembra, a quanto sia al punto in cui siamo adesso. Mi sto perdendo. No, bevi un bicchiere d'acqua. Abbiamo l'effetto dell'acqua. Non abbiamo nemmeno questo. Incredibili effetti sonori. Quando tornerò io tornerò con tutti gli effetti. paura. Peppi del mondo. Mi fai veramente paura. Avrà un pulsante per tutto. Dall'acqua da bere alla... Sarà un pulsante per spegnerlo. Chissà. Non lo so, Leo. Vabbè. Tornando invece a Eli e il padre. Che stavamo a dire? Mamma mia. Il padre ha questi problemi qua. È la visione aiuta a rivedere lui da bambino, Eli da bambino, e quindi a depurare da tutti i contorni che magari lui si è costruito e rivedere il padre come realmente è. Quindi a noi quello che abbiamo appena ascoltato non ci è sembrato un padre ubriacone che non volesse bene al figlio, che capito, un padre desolare. E quindi in realtà c'è questo processo di riavvicinamento anche alla figura paterna. Però in realtà era un ubriacone. Anche. Però non svegliamo tutto. Va bene. E quel che possiamo fare adesso... Era anche un narcotrafficante? Non so, chiedo. Tutto può darsi. Quello che possiamo fare adesso è mandare un altro pezzo dalla colonna sonora di Eli Stone. Lo vuoi annunciare tu? Non lo so, qual è? È quello che ti sto evidenziando ora. Ah, la famosissima canzone dei Derby. Ah, e qual è? Tutto o niente? Sì, esatto. All or nothing. Perfetto. Come sono bravo, eh? Sembra quasi che ci sto sempre io qui. Eccoci qua, eccoci tornati. Rimettiamo in linea anche Tommy. No. Dai, come no, che ti dispiace. Siamo tornati veramente? Beh, io credo. Sì, dai. Come hai fatto a farci tornare? Fatto tutto da solo. Ci sono. Grazie a lei, è troppo intelligente. Che bella strumentazione, ma come fai a usarla così bene? Questa è la 15ª settimana che io... Tu pensa, 15 settimane che stai qui e fai in onda. Pensa tu, sono ancora una capra. Sei una capra. Capra, ci metterebbero i politicazzi. Sì, infatti. Ma noi non siamo i politicazzi. No, però non sei una capra. No, infatti, c'è gente che sta peggio di te. Sì. Vorrei salutare Carlo Giosio che... Mannaggia la miseria. Vorrei fare un appello adesso. Vi faccio sapere un'anteprima. Questa è succosa, che non c'entra niente con la puntata di questa sera, però oggi l'ho saputo anch'io. Ah, dovete sapere anzitutto che noi... come radio stiamo organizzando una festa per il 2 di aprile a Porta Nuova, c'è scritto sulla chat sopra, vabbè, ma questo potrebbe anche non importarvi. Quello che può importarmi in realtà invece è che ci sarà il debutto ufficiale di un DJ set fatto niente po' di meno che da la persona che si è autodefinita il DJ più famoso di questa radio. Ovvero Carlo Giosio. Perché lui sarebbe il DJ più famoso? Non me lo chiedere, però ogni volta che l'ha detto io e Roberto ridevamo. Tu hai nominato Roberto. Roberto è appena entrato nella stanza. Ciao Roberto. Ciao. Quindi, Roberto è entrato. Quindi, se non volete perdervi le mirabolanti avventure di Carlo Giosio e poi ai piatti, non per tantissimo tempo, speriamo, se no lo portiamo via noi. Di peso da Porta Nuova. Sì, esatto. Venite tutti quanti alla festa a Polo Porta Nuova. Il 2 aprile. Cos'è, un sabato? Certo. Wow. Sì, fatto apposta perché così la domenica dormite. Siamo intelligenti. Cioè noi no. Noi no. Voi sì. Voi sì, voi potete dormire. Noi si pulisce, però vabbè, non sporcate. Andiamo avanti. Ok, dunque abbiamo affrontato un po' queste vicissitudini di Lai, sì. Ma arriviamo alla scoperta scientifica dell'anno. Perché la scienza, come ci insegna Zichichi... La scienza. Ecco appunto, abbiamo Zichichi in collegamento. Salve, la scienza. Se A non è non A e B non è non B. Comunque. Va bene. Andiamocelo a sentire, forse, che sarebbe meglio. Sì. No? Opla, ecco a voi. Ho capito che quello che hai avuto ieri è un comportamento che avevo già visto prima e che hai visto anche tu. Il nostro padre... Vedere persone, sentire cose che non ci sono. Fermami se non ti suona familiare. Non capisco. Questo che cosa c'entra con vostro padre? Avevo sempre associato le sue manifestazioni all'alcol, ma adesso è più che evidente che soffriva di qualcos'altro. Non c'era modo di saperlo, allora. Ho mostrato la tua risonanza al primario di neurologia e... lui ha trovato qualcosa. Che cosa ha trovato? Un aneurisma cerebrale. È grande circa 3 mm. Non lo avremmo trovato se non avessimo saputo che cosa cercare. Gli aneurismi intracranici possono essere ereditari. Non è raro che si trovino nella stessa zona del cervello di un genitore e di un figlio. E in questo caso si trova nell'arteria cerebrale di destra. Qualsiasi variazione del flusso sanguigno in questa zona giustificherebbe manie di grandezza o allucinazioni. Ah. Quando me lo toglierete? Dal momento che è localizzato così in profondità nella corteccia cerebrale, secondo il primario di neurologia, l'intervento chirurgico non è possibile. E se dovesse scoppiare? Non è detto che accada. Molte persone vivono un'intera vita con un aneurisma e alla fine magari muoiono per qualche banale malanno. Mi dispiace moltissimo. Vi lascio parlare. Probabilmente dovremo rimandare il matrimonio. Non è divertente. Non so se ce la faccio, Eli. Le visioni e il comportamento strano forse potrai anche sopportarli. Ma l'idea di perderti da un momento all'altro... Aspetta, mi stai lasciando per caso? Perché mi è appena stato diagnosticato un aneurisma cerebrale e francamente mi sembra il momento meno opportuno. Sto solo cercando di elaborare questa notizia. Sì. Eli, dove vai adesso? In tribunale, sono in ritardo. No, ma io vorrei dire... che fortuna questo ragazzo, proprio. È un fortunello, guarda, proprio. Sì, infatti. E vabbè, comunque io mi sono fermato su banale malanno. Banale malanno. Sì, perché un po' non scioglie lingua, banale malanno. Banale malanno. No, vedi. Rischi di cadere in parole che non avresti mai voluto dire. Mai, assolutamente. Assolutamente. Banale malanno. Banale ora, malanno. Diciamolo con calma, vedi, non abbiamo... Banane lampone, banane lampone. Diceva Morandi. Solamente un banane lampone. Comunque. Questo poverino. Sì. Sfigatissimo. Esatto. Cioè... Sfigatissimo, fortunello. Ora, solo perché vedere... il padre ci ha avuto un aneurisma e poi l'ha dato pure al figlio, cioè non significa che adesso proprio sia sfigato. Proprio... cioè... Poi la ragazza appena lo scopre gli dice ma io non lo so se ce la faccio sopportare il fatto che tu prima o poi morirai. Bisogna capirla, poverina. Eh sì, ho capito, ma tanto alla fin fine siamo tutti sotto il cielo, tutti prima o poi. Vabbè, ma sta lì. Cioè non è che ci cambia tanto il fatto che sai che puoi morire prima o puoi morire. Cioè nel senso, tanto non è che ti hanno dato una data, o no? Non sei d'accordo? Non lo so, bisognerebbe vedere l'attacco. Cosa gli hanno fatto? Sì, gli hanno fatto l'attacco. Hanno visto che c'era in profondità questo aneurisma di 3 mm. Sì. Ora, Tommaso, che è il nostro esperto in medicina, ci spiegherà cos'è un aneurisma. Tommaso. Si sta ridendo lui. Allora, dice sì aneurisma. No, due punti. Sto avendo intanto contemporaneamente una conversazione in chat con Cassapanco. Ah, sì? Quale sto spiegando le parti di puntata che si erano un attimino perso. E comunque un aneurisma è una a parole tue okay. Prendiamo una vena, ok, fatto niente. Niente, vai e viene, non ce la può spiegare, è perché c'ha un aneurisma il telefono. Quindi lei non che sentite? No, a volte sì, ma quando non serve, cioè quando dici ma mi sentite, in quel momento lì ti sentiamo. Infatti. Quando stai spiegando. E intanto Cassapanco ha preso una vena. Sì. Bravo, io farei un applauso. Sì, tienila lì. Tienila lì per poi il dopo momento. Vediamo cosa fa. Ora farci. Tommaso, allora, che ci facciamo? Proviamo. Vai. Sì, proviamoci. Squish. Presa una vena, se a un certo punto la superficie della vena diventa più sottile, mm-hmm. si ha un aneurisma. Cioè, in pratica... all'aumentare della pressione si gonfia. Ah, quindi cioè una vena immersa nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso della vena spostata. No, no, nel senso che è più sottile la parete, quindi potrebbe scoppiargli la vena. E... Ah, quindi tanto va il sangue alla vena che gli lascia l'aneurisma. Ecco, potrebbe scoppiare. Ho capito. Adesso intanto Cassapanco soffia appunto nella vena. Tutta la vena minuto per minuto. Ecco, quindi questa lui... vena creativa poi che ha questa sera. Comunque, questo tuo sosia. Sì. Vabbè. E quindi Cassapanco non ha l'aneurisma, no, e quindi Eli che ha questo aneurisma, a questo malo, brutta storia, che gli dà queste visioni, queste allucinazioni. E la Wagnieszka non l'ha presa benissimo, la ragazza a Wagnieszka sarebbe un dialettismo, scusate, e allora lui cosa fa? Preso da questa disperazione si uccide. Prima di arrivare a tanto, che ne so, la prima parlare. Puntata poteva essere finiva tutto lì, ma no, poteva essere interessante come risvolto. Chiede conforto a qualcuno che gli sembra essere il mago Melo d'Egitto, essergli amico, uno con cui può parlare. E in questo momento chi è l'unico che gli ha dato conforto riguardo a questa storia? Pippo Baudo. Ah sì? Può darsi. Non mi avevano avvisato che c'era anche Pippo Baudo. Non lo so, io provi, in America, in America. Ma buongiorno, è venuto in Italia. Noi abbiamo portato più sportiamo dopo aver esportato la democrazia. E invece esportiamo no. Pippo Baudo. Invece no, va dal dottor Chen. Chi? Ah sì. L'olista. Non l'oliologo, come diceva qualcuno. L'olista. L'olista. Quindi, l'ololista. Non l'onanista, l'olista. L'olista. Uno che gioca lollo. Sì. Andiamoci ad ascoltare. Non lo so. Uno che lolla. Un nuovo gioco. Uno che in chat lolla sempre. Un lollista. Andiamo avanti. Tu presenta sempre senza appuntamento. Dottor Chen, non è cambio olio motore. Torna venerdì. Sono andato da un dottore vero. Hai per caso qualche ago per un aneurisma cerebrale inoperabile ereditato da un padre alcolizzato che io ho erroneamente odiato per 20 anni? Accidenti, questa sì che è una batosta, fratello. Dov'è finito il tuo accento? È una storia lunga. Vuoi una birra? Sono cresciuto in una comune. Da lì, Università di Berkeley, laurea in filosofia. Ma non c'è futuro nell'etica esistenzialista e mi sono messo a praticare l'agopuntura. Solo che nessuno vuole un agopuntore che si chiami Frank Lebakowski. Vogliono l'incenso, il misticismo, un accento straniero. Insomma, vogliono il dottor Chen. Fantastico. E anche le mie cure erano immaginarie? Ehi, 8 anni di medicina olistica, 2 anni di studio a Pechino. Dammi un po' di credito. Coraggio, raccontami quest'ultima visione. È inutile, è soltanto il mio cervello difettoso che mi gioca a brutti scherzi. Ogni cosa ha 2 spiegazioni, Eli. Quella scientifica e quella divina. Spetta a noi scegliere a quale vogliamo credere. La scienza spiega il vaso ingrossato nella tua testa, ma spiega come la ragazza con cui hai perso la verginità sia arrivata nel tuo studio legale? O come suo figlio ti abbia inviato un messaggio con i suoi cubi? Ok, e allora quale sarebbe la tua spiegazione divina per tutto questo? In ogni religione si crede che esistano persone inviate per aiutarci a trovare la nostra strada. Generalmente le chiamano profeti. Un profeta? Pensi che io sia un profeta? Come Mosè? Dio disse a Mosè che avrebbe mandato un profeta per ogni generazione. Perché non un avvocato che si occupi di casi che hanno grande risonanza e dei quali il mondo può leggere sui giornali? La differenza tra un profeta e me è che io non credo in Dio. Ci credi? Credi in quello che è giusto o sbagliato? Credi nella giustizia, credi nell'equità e credi nell'amore. Ciascuna di queste cose è Dio, Eli. È quello. Anche quello è Dio. 'Cause I gotta have faith. Esatto. Io ti dicevo, devi abbassare il volume. Troverò prima o poi un tasto per questa cosa. Sarebbe bello, ti ringrazieremo in tanti. Grazie. Quindi crede nell'equino, no? Lui. Comunque, visto, è una puntata degli Spacciaseri in cui si parla di Dio, cioè temi alti, altissimi, no? Sì, infatti. E infatti, chi se l'aspettava, no? Sì, infatti. Tu non te l'aspettavi. No, abbiamo pure le suore in diretta, tu pensi. Tu pensi. Ora l'hai detto in chat, si scatena gli anticristo che ci sono tra di noi, qui in chat magari si scatenano. Nessuno saprà niente. In ogni caso. Quindi, hai visto? Dicevamo dell'equino, no? Sì. Cioè, mai visto che ganzo, il dottor Chen? Cos'è? A parte il fatto che è un maledetto proprio, cioè che si finge cinese per fare l'olista perfetto. Pessimo. Come dai, come no, fa? Vai a fare muratore, cioè, invece di fare olistica. Lui ha studiato filosofia. Ho capito, ha studiato filosofia, non interessa a nessuno. No, non sono d'accordo. aiuto. Invece no, secondo me è veramente ganzo come personaggio quello di Frank Lebakowski. Frank Lebakowski, alias Dottor Chen, che mi ricorda cosa? In realtà una cosa che non c'entra niente, però una canzone di un autore che potreste aver sentito ma non vi dirò, è un matematico che ha scritto una canzone su un altro matematico russo che si chiama Lobachevsky. È la canzone come fa più o meno. Meglio che non te la faccio sentire, perché è una canzone che ha scritto lui e che suonava lui col pianoforte, ed è una, diciamo, una satira su questo Lobachevsky che prendeva, diciamo, spunto dalle teorie di altri, no? Dalle pubblicazioni di altri, e se le scriveva poi le ripubblicava a suo nome, ad esempio. Però così gli hanno dato un bel nome, sì, gli hanno dato comunque un bel nome, perché com'è che adesso si chiama? Lebakowski. Sembra anche il grande Lebowski. Sì, un po' sì, infatti anch'io ci ho pensato, il grande Lebowski, però Lebakowski, cioè quella C che non sì, ti rompe un po' l'equilibrio. Era copyright su Lebowski, ce l'hanno i fratelli Cohen, quindi. Sì, sarà quello. Sì, sì. Allora, noi abbiamo scoperto principalmente qual è il tema, diciamo, di questa serie TV, che è un po' il dilemma di quest'uomo che si trova in mezzo a queste allucinazioni. Sì, infatti, carne deve, o pesce. Deve portare avanti, dei casi che gli affidano lo studio, e lui è diviso tra il fatto... Tra frutta o dolce? No, tra scienza e fede. Ah, ecco. Tra il fatto scientifico che lui ha un aneurisma che prima o poi lo ucciderà, oppure il fatto di credere che ci sia qualche dio che gli invia dei messaggi attraverso cui fare del bene al mondo, essere un profeta, diciamo. Ora, io non vorrei deludere le aspettative, ma nessuno tra gli sceneggiatori delle serie TV pensa che ci potrebbe essere una terza via, che ne so, dedito alla droga, così direttamente e basta. Finisce così. Gli sceneggiatori non l'hanno previsto, quindi io sono lì a parlare del nulla, cioè nel senso, non l'hanno previsto, quindi non te lo posso dire. Però voglio dire, cioè, nella realtà alla fine uno va a finire che entra nella spirale del male e poi soffre così, no? Si dà la cultura delle droghe e o trova giovamento, però muore prima, oppure come? Comunque essere pubblicate in fascia magari protette. Niente, si sta drogando anche Tommy, perché non lo sentiamo. La linea di Tommy si droga. E non lo riusciamo a sentire. No, infatti, faremo finta che Tommy non esiste. Comunque Tommy avrà detto una cosa del genere. Sì, del tipo, bambini a casa non drogate. No, appunto, non può andare in onda in certe fasce protette, non possono parlare del tema della droga, della gioca. Non mi ricordo in che fascia oraria andava in onda Eli Stone, sinceramente. In Italia... Nella fascia sicuramente in cui si può parlare dell'aneurisma, però, perché... Sì. Quindi, cioè, nel senso, comunque i temi non sono poi così banali, però nel senso non si scade mai nella gioco o nel sesso propagandato in questa maniera qui. Come può essere Californication o Sex in the City o... Tutti i telefilm che ti vedi costantemente. Esatto. Ecco, io per purificare la mia anima posso dire adesso che guardavo anche Eli Stone. Ecco, vedi? Bravo. Guarda un po', bravo. Cosa posso dire io di aver fatto? Tu l'hai mai fatto? Io? Eh? Io no, ma guardavo un telefilm che non avete mai visto. Cioè? Sorprendici. No. Come? Lo saprete nella prossima puntata. Quindi abbiamo un'esclusiva, nella prossima puntata ci sarà di nuovo il presidente. F4, F4. Spoiler. Però da soddisfazione mandare il tasto spoiler. Comunque io direi che abbiamo parlato fin troppo e metterei un pezzo di questo qui che presenti tu, che è un perché amico tuo. Presentarli sempre. Ma perché io? Tu sei bravo, presentai i nomi inglesi. Perché ci sono troppi apostrofi, vero? Appunto. Maledetto. Allora, questo qui si chiama... Aspetta, metto gli occhiali. Allora, ok, li ho messi veramente, sì. Caso. Allora, testimonio. Si chiama Andrea Mingardi. No, non è vero. È Brett Denham. Senti che pronuncio Brett. Non ho detto Brett, nemmeno Hayat, ma Brett. Brett Denham nella sua, diciamo, la punta più alta della sua produzione, il masterpiece di Brett Denham, consigliato a tutti quanti, mi raccomando. Il capolavoro di Brett Denham. Comprate musica, perché sì, è importante. Dischi originali. Come facciamo noi qui in radio. Sì, qui è pieno, infatti sta crollando la libreria di dischi. comprate, comprate Brett Denen e ascoltate quello che stiamo ascoltando noi, cioè Darling Do Not Fear, che significa? Cara, non avere paura. Amore, non temere, sta tranquilla, mi raccomando, stai tranquilla. Senti come Giorgiona, poi come parte Giorgiona, è molto scitarrata. Piaciuto? Non lo so. Cioè, è un po' strano, sì, in effetti. Mi ricorda tempi andati. Che te ricordi? Sì, niente, era così. Ora, aspetta, visto che siamo qui a cianciare di nulla, cianciamo di nulla e parliamo di musica. Cianciando. Quella che sentite come sottofondo, come base, come si dice qui in radio, sì, è una canzone del Le Gros Ballon. Chi? Le Gros Ballon. Chi? Vabbè, quelli lì, ce lo dici come è scritto? Che sono stati conosciuti da me medesimo grazie al magnifico sito del nostro speaker, blog musicale, The Breakfast Jumpers. Aha. Quindi ringrazio Davide o chi per lui, chi li ha messi online. Grazie, perché Davide, mi hanno permesso di trovare questo brano che si adatta particolarmente alla voce soporifera mia e tua di questo momento. Ma Le Gros Ballon... tipo significa i grossi palloni. È uno, perché non c'è il plurale. È il grosso pallone aerostatico. Ma è francese. È francese, però loro sono italiani. E però hanno registrato a Berlino. Non mi chiedere perché, però è così. Perché si sa che a Berlino tutti registrano a Berlino almeno un disco. Non sai come dice il detto, no? Vedi Berlino e poi registra. E poi incidi. Sì, infatti. Anche sulla pietra, eventualmente. Comunque. Dicevamo, tornando di nuovo a questo maledetto Eli Stone che ormai ci sta tormentando la nostra serata. Questo sfigato uomo. Questo povero sfigato uomo. Abbiamo intrapreso il viaggio nella sua sfiga. Ecco. Okay. Adesso per rovinarti proprio tutto, per fare spoiler, che tu sai come si fa. Spoiler. Guarda come è contento, è un uomo contento. Come quando c'era Tommy qui, lo faceva sempre. Pensare quando faccio e quindi... Capito? Questo bip però è troppo breve, me lo devi fare più lungo. No, non funziona. Devi fare un bip, se no non copre nulla. Questo te l'avevo già detto qualche infatti settimana infatti non fa. Deve coprire, se io dico sa a me, oppure sa a me, si deve sentire l'inizio e la fine. Dici, certo. Vabbè, se sei contento tu con questo giochino qui. E dicevamo, per rovinare un po', per fare spoiler, ma noi non ci limiteremo soltanto a questo piccolo spazio, sì. Raccontiamo la fine del primo episodio. Dramma. Spoiler. Drammatico, veramente. Come hai fatto ad alzare? Ah, si alza assolutamente il volume. E certo. E ora capisco. Allora, facci sentire come va a finire questo primo episodio. Sì, c'è scritto proprio fine primo episodio. Quindi ho scritto io, i tag li ho fatti io. Te no? Pensa. Questa è la mia storia. Ci sono gli Sherpa e George Michael. Ci sono funivie, profezie e medici cinesi mistici, che non sono poi tanto mistici. Né tanto cinesi. Ho la sensazione che sia solo l'inizio. Mamma ha detto che per tutta la vita hai avuto queste visioni. Non potevo immaginarlo. Scusami, papà. Scusami se ti ho accusato di cose delle quali non avevi alcuna colpa. E più di tutto, scusami se non sono la persona che dicevi che sarei stato. Ma vedrai che cambierò. Te lo prometto. Gliel'ha promesso. Quindi ora spieghiamo un po'. Ti ricordi quello spezzone che abbiamo messo sul padre che gli dava la cartolina con su scritto questi sono i monti del Pashpai, che non mi ricordo più di dove erano. Ah sì, i monti del Nissan Qashqai. Esatto, quelli lì. In pratica lui ha ricevuto dalla madre mentre era in Nissan Qashqai. No, ha ricevuto un barattolo di caffè. Infatti la traduzione la traduzione del titolo italiano è un barattolo di caffè del primo episodio italiano, è un barattolo di caffè. Mentre in inglese è pilot, semplicemente. pessimi. Hanno poca fantasia in Inghilterra. In americano. Forse siamo stupidi noi. Poteva scrivere direttamente pilota. Eh no, però no. Tutti quanti gli episodi chiamano pilota. No? Invece in italiano ci sforziamo di trovare un titolo a qualcosa. Possiamo anche fare troppe cose troppe con cose. I titoli inglesi, maledetti. Vabbè, ma lasciamo stare questo capitolo. Sì, si chiama un barattolo di caffè. La madre porta in questo barattolo di caffè, mentre lui è fuori dall'aula perché sta attendendo che il procedimento finisca, quello in cui lui è avvocato, sta cercando di finire questa causa. In realtà ci sono le ceneri del padre. Ci sono le ceneri del padre. No, ci ho azzeccato! Esatto. No, no! E quindi lui... siccome il padre nella visione... Ce l'abbiamo il tasto applauso? No, ci manca. Facci il tasto applauso. Esatto, vedi, bravo. Mi applaudo da solo. Hai visto il futuro, incredibile. Infatti. Non gliel'avevo detto. Non me l'aveva veramente detto. Bravo. Confermo che non me l'aveva detto. La accendiamo, sì, l'ha confermato. E niente, quindi lui va, siccome il padre aveva detto faremo un viaggio insieme, ci andremo insieme, lui capisce che lui deve portare questo barattolo di caffè con dentro le ceneri in India, lì dov'è, su questi monti. E quindi va nel Qashqai. E quindi va nel Qashqai, nei monti Pashmina, non mi ricordo come si chiamano. E insomma, va lì. Monti Pashmina. E questo qui che... Ti metti al collo. Va bene, restiamo seri. E questo qui è che abbiamo ascoltato il discorso che lui fa in tenda con i due tizi che gli stanno lì a... gli fanno da guida. E, che fa al barattolo di caffè prima di... aprirlo e lanciare le ceneri dal monte. Tu pensa che brutta visione, cioè tu che vedi un uomo che parla con un barattolo di caffè, dici, ma tutto a posto? Sì. E ora ma cosa sta facendo? Ma niente, parlo con chi? Con mio padre. Dov'è? Lì dentro, nel caffè. Sì. Guarda, capisco, però insomma. La scena originale della serie TV, questa è lo spezzone che io ho tagliato, ma si conclude con i due Sherpa che si guardano tra di loro e nella loro lingua mangiano, si dicono buon appetito, piangono leggermente e fanno devo andare a parlare con mio padre prima che venga cremato. E quindi c'è questa scena che è la cosa bella di Leiston, che ha del comico all'interno del momento serietà, perché questo è un momento abbastanza triste, nel fatto lui che ricorda il padre, che capisce che ha sbagliato a trattarlo come ubriacone perché alla fine lui aveva l'aneurisma come lui, quindi comincia a comprendere un po' il dramma del padre, e nel frattempo viene inserito questa vena comica di questi Sherpa che, capendo un po' il discorso, fanno devo andare a parlare con mio padre in lingua tra di loro, questa lingua indiana strana che ti fa sorridere. Dici, però nel momento dopo c'è lui che getta le ceneri. È incredibile, però è tutto insieme, tutto così. Quindi noi consigliamo almeno di guardare il primo episodio che vi abbiamo più o meno raccontato, ma andando avanti. Esplorando un po' l'ampio panorama di personaggi, il nostro fisico Paco Lanciano ha preparato una serie. No, non siamo in quelle. No, non è quella trasmissione lì. Ah, okay. Allora, cosa succede nei successivi episodi? Cosa succede? Ritorna la musica. Lui risente di nuovo, perché lui, dopo aver risolto questo caso, aver portato il padre sui monti Pashmina e gettato al vento, lui pensava, dice, adesso ormai è finito il mio dramma. Sì. Ho adempiuto i miei doveri con Dio, è finita, ora sono libero dalle visioni, dalle allucinazioni, posso tornare al mio lavoro in santa pace. Certo. E invece no. Drammi medicali. Drammi medicali, che è un'altra serie di cui forse un giorno parleremo. E andiamo un attimo a sentire questo nuovo spezzone. Oh no no no. Devi farla smettere, la musica è tornata. Dottor Chen, compaziente adesso. Prego, torni più tardi. Devo parlarti immediatamente. Cartello fuori dice in seduta. Eli disturba Dottor Chen continuamente. È importante. Molto dispiaciuto, questo paziente impaziente. Lei dorme 5 minuti. È un comportamento da schifo. No, schifo è sentire un coro durante la riunione di staff del lunedì mattina. Ma ha un senso. La musica corale si è originata con l'innografia ambrosiana nel IV secolo. Non sono venuto per un seminario di teologia, ma per farmi conficcare un ago in fronte in modo che la mia vita smetta di comporre la sua colonna sonora. Che cosa cantava il coro? Non lo so, e non mi interessa. Questa storia doveva finire. Ho assunto la causa, ho vinto la causa, ho preso le ceneri di mio padre e sono andato sull'Himalaya. Dovrebbe essere finita. Ho un gran bisogno che sia finita. Non funziona in questo modo, Eli. E com'è che funziona? Non lo so, non mi era mai capitato come paziente un profeta potenziale. Smettila di dire che sono un profeta. Come vuoi, ma per la cronaca è esattamente quello che direbbe un profeta. Non voglio essere un profeta, è chiaro, voglio essere un avvocato, uno bravo, quello che era un tempo. Vuoi aiutarmi oppure no? Rilassati. Comportati esattamente come l'altra volta. Segui i segni. Se le cose dovessero mettersi male, vieni a trovarmi e ti infilo qualche ago. E la prossima volta che fai irruzione, fratello, ti metto in conto la seduta. E va bene. Esagerato. Sì. Cioè, gli mette in conto la seduta, gli mette qualche ago, gli conficca qualche ago in capo. Ma violento, eh? Sì, è un po' così. Insomma, questa cosa è abbastanza drammatica. Sì? Sì. Dici? Sì. Beh, vabbè, però se non succedesse tutto ciò, la serie non avrebbe più senso, non avrebbe seguito, quindi sarebbe già finita il primo episodio. Nel senso, un po' uno se lo aspetta. Il nostro telespettatore. Cioè, il nostro telespettatore. No, per me è già finito. Se non mi avessero detto alla fine che c'era qualcos'altro, magari al primo episodio... Non avessi guardato il secondo. Infatti. Però invece il secondo è stato fatto. Vabbè, potevano farlo su qualcun altro. Vabbè, ma si invece chiamano serie TV per una ragione, no? Perché sono seriali. È certo. Come gli omicidi. Ecco, e qui torniamo al serial killer di prima che tu non hai ascoltato, ma vabbè. No. In monoserie c'è stato un mini spoiler riguardo alla puntata di oggi. E Tommaso, ecco, e Tommaso ha avuto la malaugurata idea di dire che il personaggio di cui andavamo a parlare c'entrava con i serial killer. Questo perché lui ha recitato, quando è finita questa serie qui, ha fatto una particina in Dexter. In Dexter, esatto. Vero? Era l'ultimo dei serial killer di questa stagione. Quindi è anche un serial killer, Eli Stone. Non Eli Stone, ma il protagonista, esatto. Che è Harry John Miller, qualcosa del genere. Ah, sì. Harry John Fonda. Non è lui, ma... Non è lui, ma ci assomiglia. Quello che ho detto io, sì. Ho capito. Quindi abbiamo visto un po' qual è il punto di vista del Dr. Chen su questa ritorno della music. Però Eli non è soddisfatto, perché lui non è mai convinto dell'una o dell'altra posizione. Perché non si ritorna? Si barcamena un po' di là, un po' di qua. Non ritorna al supermercato e ridà il prodotto, visto che non è soddisfatto. Non c'è il soddisfatto. Non c'è il rimborsato. Ah, niente. L'aneurisma se lo tiene, quindi deve campare con questa cosa qui. E quindi cosa fa? Va dal fratello, dal caro Nate. Amaramente. Va dal caro Nate e gli chiede, ma capo, come già fa? Caro Nate è l'inglese per caronata? Questa dovevo dirla. Io mi sento sempre più un imbecille a fare la trasmissione con certa gente. Io sto ridendo. Va bene, intanto salutiamo Aulin e Tavor che sono qui nella nostra chat. Com'è chimica questa puntata? Mandiamo in onda questo spezzone che parla di Nate, la scienza, l'aneurisma e Eli. Prima George Michael e ora un coro di bambini. Mi preoccupa la piega che potresti prendere. Già, meno battute, più terapie, Nate. Solo per curiosità, quale canzone cantavano? Se vuoi saperlo, Freedom. Il coro cantava Freedom. Allora non sei più inseguito da George Michael, ma solo dal suo repertorio. Ho una bomba a orologeria nel cervello e mio fratello fa lo spiritoso. Non faccio solo lo spiritoso. Mi sto consultando sul caso con altri medici. Scambio email con la Mayo Clinic e il Walton Center e Tiantampua persino. Che cosa dicono? Data la posizione dell'aneurisma, la chirurgia è una pessima idea. Pessima perché? Puoi perdere le capacità motorie, diventare un vegetale. Le prospettive migliorerebbero se uno più competente di te facesse l'intervento. Non di molto, ho paura. Mamma mi ha detto la ragione del tuo viaggio in Himalaya, per le ceneri di papà. È stato molto... stupido da parte tua. Non dovresti fare cose del genere, viste le tue condizioni. Nate, tu credi che potrebbe esserci un significato più profondo per cui... papà e io abbiamo la stessa patologia? Assolutamente sì. Si chiama genetica, testa di rapa. Hai anche l'eczema di mamma e lo squallore terminale di zio Gary. Sta lontano dalle cime delle montagne. E vabbè. Stai lontano dalle cime delle montagne. Consiglio proprio, sai, non accettare. Sì, è un fratello un po' sui generis. A volte sembra così che non gliene freghi niente. È una bestia. Cioè. No, vabbè, ma va a momenti. Ti fa male qui, ti fa male là, così e là. Oh, ma chi sei? Vabbè, sei un neurologo abituato a vedere le malattie, quindi a trattare con i pazienti in maniera distaccata. Non lo sapevo. Ah, non lo sapevi, scusa. No, allora perché va a chiedere al fratello i consigli? Perché è neurologo pure lui. Può capirci qualcosa di sta cosa. Credevo che chiedesse consiglio perché sai... sei mio fratello, consigliami. Te puzza il fiato. Un altro parere? No. Ti serve il colluttore contro la litosi. Vabbè. E niente. Mi chiedono in Italia dove si vede. È andata in onda su Fox, ora non so se è ancora in circolazione. In realtà è andata anche in onda su Italia 1, ma come al solito, dopo tipo la seconda puntata hanno deciso che non era degna di Italia 1 e quindi l'hanno spostata tipo al palinsesto dell'Alba. Sì, vabbè, queste sono le solite scelte su Italia 1. E vabbè, ora chiedo a Tommaso se magari riesce a reperire un palinsesto aggiornato dove si trovi collocato anche Eli Stone e a comunicarcelo. C'è Tommaso? Sì? In realtà in Italia non è più trasmesso dal 29 agosto del 2010, dove hanno mandato l'ultima puntata della Civita 1. Ho capito. Io no. Allora... No, vabbè, per cui attualmente dovete soltanto cercarli o DVD o altre cose. No, vabbè, in streaming non diremo internet, legale, però diciamo, visto che non c'è, se lo volete vedere streaming è legale, no? No. Come no? No. Ma come no? Dai. No. No. No. Vabbè, pagare, ve le do io, passate da camera mia, portate una pennina. Ruberesti un'automobile se potessi. Oppure venite in radio, insomma, fatevi venire, mettetevi in contatto. A proposito di mettervi in contatto, mettetevi in contatto. Aggiungete gli spacciaserie, tutto scritto minuscolo, sul vostro contatto Skype. E poi aggiungeteci su Skype, anche perché tra un po' faremo il quiz. Cioè noi proponiamo come al solito il quiz. Faremo tante e poi e quindi, capito? Ho uno scemo accanto. Ma visto che tu eri attento, di no. Che pezzo di George Michael si è parlato? Vediamo se era attento. Attenzione. Non ce la fa, non ce la può fare. Bravo, non eri attento perché stavi lì a guardare il tuo codice maledetto. Siamo in trasmissione, devi stare attento. Stavamo parlando di Freedom. Posso dirlo io? Ok. L'ha già detto. Sei arrivato tardi, mi dispiace Tommy. Quindi io direi adesso di mandare questo magnifico pezzo di Giorgio Michael, di Giorgio Michele. È di Giorgio Michele? Sì, è di Giorgio Michele e poi l'ha fatto, Giorgio poi Michele. L'ha rifatto una cover... Chi? Aspetta. Quello dei Take That. Robbie Williams, esatto. Attenzione. Ha fatto la cover, sai, quando è uscito dai Take That, ha fatto la cover. Infatti era tutto scemo, no? Infatti io che avevo qualcosa come 12 anni stavo dicendo, quanto sei scemo. Ah, pensa tu. Sì, sì, e poi... Per dirlo tu che avevi 12 anni. Diciamo la verità, io lo detestavo i Take That. Poi dopo ho detto, no, però in effetti è una canzone carina, però tu sei troppo scemo, quindi la canzone è scema. Poi ho scoperto che l'ha fatta George Michael, ho detto, beh, no, forse la canzone è carina, però tu rimani uno scemo. Poi mi è toccato ricredermi anche su di lui, quindi, insomma, sono tutte cose... Sono problemi. Ma cosa ha fatto il povero George Michael? Cosa? Cosa ha fatto? No, niente. No, cosa anzi, ha fatto il povero George Michael? Noi apprezziamo Giorgio Michele, giusto? Sì, sì, ogni tanto esce, entra dal carcere, paga multe così per scandali. Però, a parte questo, noi diamoci un po' questa canzone, va. Vai, libertà. Senti come parte Django. Oh yeah. Michele. Ma anche no. Ma che bello. Brutto e peloso. Soprattutto vabbè. Peloso. Vorrei, ora mi rimetti Tommy. No. Rimettimi Tommy. Tieni Tommy. Grazie Tommy. Ciao Tommy. Sei tornato. Ciao Piero. Grazie. Intanto rinnoviamo l'appello. A volte mi sento andare e venire. Ti senti è andare bello. E venire. Sì, è un po' un dare e un avere, no? Come andare sei e un venire. Divago. È sì. Un andare e venire. Aspettare e non venire è una cosa da morire, cantava per la bisbetica domata. Ah sì? Eh sì. Che cultura, ragazzi, solo qui su Radio Cicletta. E continuiamo con Eli Stone. Eli Stone, la serie TV di quest'oggi. La serie TV che tutti stavano aspettando. Ah sì? Sì, sì. Io ho diversi anni che l'aspetto. Intanto è stata una serie molto attesa. Molto attesa, sì, sì. Da chi? Da me, da tutti quelli che stavano alla fermata dell'autobus. Scusa, quando passa l'Eystone? In generale, all'inizio c'era molta attesa per questa serie TV. E poi è scemata. Anche se poi dopo è un po' scemata, sì, soprattutto perché prima di continuare a parlare della serie, non so, Piero, cosa vuol dire del secondo episodio? Guarda, io stavo per parlarti del rapporto tra Eli Stone e il suo capo, ovvero Jordan Weathersby, una cosa del genere, credo. Jordan Sbrecht. No, ma della trama del secondo episodio. Lo stava sviscerando tutto. Lo vuoi dire tu? Di tu, dai, su, parlane tu. Ti lascio... Noi nel frattempo facciamo una partita. Sei spoiler free, anzi. Spoiler. In realtà è sempre del primo Lando, scusami. Il motivo per cui ha fatto un po' di flop questa serie è stato che è stata accusata da una grande azienda farmaceutica di dire il falso. Ah sì? Infatti nel primo episodio si fa riferimento ad un farmaco, un certo che potrebbe essere la causa dell'autismo di un bambino, che poi è il caso che prende appunto Eli Stone. E appunto i medici dell'American Academy of Pediatrics l'hanno accusato e è successo appunto un grande scandalo che in parte ha anche contribuito poi dopo a far scemare gli ascolti, che all'inizio invece promettevano molto bene. Infatti è stata un po' una brutta prima puntata, mettiamola così, da questo punto di vista, nonostante il grande ascolti poi dopo ha causato un po' di problemi. Ecco, quindi cosa ci insegna questa esperienza di Eli Stone? Non, amici a casa, amiche a casa, non mettetevi contro le case farmaceutiche, non lo fate, perché non è bello. Voi siete pochi, loro sono in tanti, loro hanno i principi attivi, voi non siete nemmeno conti, quindi mi dispiace. Avete già perso in partenza. Incredibile. Già. Comunque, io volevo parlarvi del rapporto tra Eli Stone e questo appunto Jordan Weathersby, che è appunto il capo, colui che dà nome allo studio associato, che è il Weathersby Paulsen e qualcos'altro, Posner e qualcos'altro, ora non mi viene in mente, che sono appunto i cognomi degli avvocati anziani, come si suol dire, dei soci. Perry Mason. Ecco, non lo so, Perry Mason è un'altra serie di cui forse un giorno dovremo parlare. Ma per il momento continuiamo ad indagare su Eli Stone e il rapporto con il suo capo, Jordan Weathersby. Hai già perso l'altra causa? Un po' persa, un po' vinta. Ma mi ha reso consapevole che non posso occuparmi del Soninsky adesso. Abbiamo ricominciato ad attaccare i mulini a vento, è così? Io dico solo che il modo in cui io gioco la partita legale, deve essere cambiato. Cambiato? Come? Beh, per prima cosa, non posso passare tutto il mio tempo ad affrontare casi come il Soninsky. Vale a dire casi da Corte Suprema di risonanza nazionale? Non posso passare 70 ore a settimana a rendere più ricchi i ricchi. Io devo rimanere libero e aperto e... Come un albero nel vento e tutti quei principi orientali. Come un albero nel vento. Sono certo che pensi a me come a un gelido uomo d'affari. Un socio anziano interessato solo alle ore fatturabili di uno dei suoi soci anziani. Ma il mio investimento su di te non è stato solo economico, e non parlo di mia figlia. Ti ho assunto e io ti ho guidato prima che conoscessi Taylor. Non ti ho assegnato il Solinsky perché hai avuto la meglio su Matt Dowd in una riunione di staff. Ti ho assegnato quel caso perché ho sempre pensato che tu fossi il futuro dello studio. Il mio studio che ho passato oltre 30 anni a costruire. E ero convinto che per te fosse la stessa cosa. In effetti lo era, ma... Bene, rispetto alla tua posizione. Personalmente sono curioso di vedere come ti adatterai al nuovo stile di vita. Non sono certo di seguirla, signore. Beh, Don Chisciotte rinunciò a quasi tutte le sue terre per comprare i suoi libri sulla cavalleria. Mi chiedo, Eli, a che cosa rinuncerai tu? Buonanotte. Cos'è questa storia dell'investimento, la figlia? Allora, no, cioè io non ho capito. Ecco, la cosa che non ci siamo dimenticati di dire è che Eli Stone è fidanzato con Taylor Weathersby, che è la figlia di Jordan Weathersby. Taylor Kittersby. Weathersby. Tra l'altro, Taylor è un'altra avvocata specializzata in diritto di famiglia che lavora in uno studio parallelo, in un altro studio. Come è possibile questa cosa? A San Francisco ce ne sono tanti di studi. San Francisco. Solo che dopo che scopre. Sarà un motivo per cui gli americani odiano gli avvocati. Perché dice ne hanno fatte perché talmente tante. Ma sono tanti. No, ma perché sono tanti. Ma pure in Italia sono tanti. Sì. Hai mai visto la camionetta dell'ordine degli avvocati? Te l'ho già detto, no? L'hai detto una volta, però non mi ricordavo. Ordine degli avvocati? Attenzione, amici a casa, attenzione quando siete a Pisa, state attenti, se arriva il pulmino dell'ordine degli avvocati, è pieno di avvocati lì dentro, perché li porta al lavoro, non so dove li porta, dove c'è un caso scagliano la camionetta e ma dentro è dove pieno. Dove l'hai vista pieno. Questa camionetta? Davanti Scarpamonte. Ah sì? Sì, ogni tanto sì, ma quindi cioè, a nel Pisa senso, esiste questa cosa? Sì, a Pisa esiste, cioè esiste, c'è una camionetta dell'ordine degli avvocati, come tipo la Batmobile, solo per gli avvocati, no? Ed è piena, proprio, cioè, c'è un sacco di gente. Tu quando senti l'avvocato dice, presto, alla Batmobile, entrano tutti là dentro, c'è la musichina, poi vedi anche, lanciano le cartelle, no? Si vede, Sfrash! Ma fanno come Batman e Robin Nash. Fanno come Batman e Robin. Con le pertiche, tipo le. Sì, c'hanno tutto quanto. C'hanno anche la pertica, sì, assolutamente. Cioè, ma attenzione, perché se vi fanno causa, è un macello. Quindi per dire, cioè, no, non fate l'incidente col pulmino dell'ordine. Però se li pagate, forse avete qualche chance contro le lobby farmaceutiche. Quindi vedete un po' voi come barcamenarvi. Sì, infatti. In che condizioni siete? È un mondo difficile. Sì, infatti. Da una parte bisogna pagare. O le case farmaceutiche o gli avvocati. Comunque, dicevamo degli avvocati della. E quindi stavamo parlando di Jordan, che appunto lo vedeva come il suo figliuoccio, in un certo senso, come il futuro del suo studio. In realtà si è dimostrato un caino. In realtà comincia ad avere allucinazioni, comincia ad avere un senso morale troppo sviluppato, quindi non va dalle cause che portano soldi all'azienda, ma piuttosto è un avvocato pro senso bono, morale, diciamo. Sì. E quindi comunque un po' disorientato, se non altro, da questo cambio di Eli. Nato senso morale, ci rovinerà tutti. A proposito di senso morale, sì, possiamo introdurre un nuovo personaggio. Il moralizzatore. No, Maggie Decker. Già che me lo dici così sembra una torta alla crema. No, è invece una bella fanciulla. Ah, sì? Secondo me è meglio della ragazza attuale di Eli Stone, diciamo. E perché, che c'entra lei? Perché poi chissà, chi non sa, succederà qualcosa. Lo scopriremo solo nei prossimi episodi. Quindi io manderei questo breve per sentire quella voce di questa ragazza. Sentire la voce non è granché, soprattutto nella traduzione italiana non è granché, però c'è una tornacchia così. Faccio ascoltare. Già che respiro. Ehi! Perché sei seduta alla mia scrivania? Comincio ad affezionarmi. Ricordi la mozione Catwilder? Mi fai da guida. Ti viene niente in mente? In effetti sì, stavo provando a esprimere un desiderio tipo sparisci. Sì. Non ha funzionato. Senti, sono già impegnato a deludere due donne questa settimana, per cui... Ho sentito. Hai sentito o hai ficcato il naso? Ho chiesto in giro. Tu e la tua fidanzata che discutete davanti al giudice Sims e non una discussione qualunque, ma roba seria. Senti, ho tanto urgente e vero lavoro da fare, mi serve quindi una strategia per la mozione. Fingo di farmi mettere alle corde o punto dritta al KO. Beh, qualunque cosa decidi, falla breve. Breve? Giusto? Succinta. Vado pazza per la brevità. Taglierò 15 pagine alla mia relazione. Questa musichina da schiaffi, no? Proprio mentre lei parla. Sì, è un po' il suo tema, diciamo, per le prime puntate. Sì, eh? Sì, quando entra lei c'è questo puzzo, sì, di schiaffi. Lei in pratica è la... La schiaffeggiatrice. No, è quella nuova, che prende gli schiaffi. Che è l'avvocato appena laureato, che ha tutti quello queste odioso cose. No, che non sa fare ancora niente, non sa fare dibattiti, non sa rispondere alle cose. E quindi chiede sempre aiuto a qualcuno di riferimento, che nel nostro caso è Eli. Quindi sta lì e lo martorizza, gli dice, ma dai, aiutami, devo fare questo, come si fa? Quindi lui magari c'ha altri casi più importanti per la testa e lì viene con... C'ha altri casi per la testa, no? Ora io non lo so, non si può parlare con questo... C'ha altri casi... Ecco, ho detto io. Da avvocato, eh. Dunque, casi legali. E quindi Maggie all'inizio, diciamo, è un po' una che un po' rompe l'armonia, giusto? E cosa succede? Tommy, ci sei nel frattempo? Sì, sì. Ogni tanto va, viene. Ci sono, ci sono. Cioè, ti sta ascoltando, è rapito dalla tua voce. Ah, sì? Sì. Come gli alieni? Sì. La mia voce è aliena. Sì, sto cercando un po' di seguire la chat, però vai. Segue anche la chat, che uomo. Noi ce ne freghiamo un po' della chat, perché nel senso, qui ci sono tante cose che avvengono, che accadono. E quindi stavamo parlando di Maggie. Maggie, quindi per la prima parte della prima stagione, è un personaggio appunto che si attacca e chiede, dice, dai, aiutami, aiutami, aiutami. Poi, a un certo punto, c'è un cambiamento. È una lappa. Succede qualcosa che porta a svelare il fatto che nello studio e comunque al mondo esterno che Eli ha questo aneurisma. E quindi c'è tutta una cosa sul fatto che lui aveva mentito prima a Jordan. Ha tirato fuori il superpotere. No, nel senso, non è che lo fa, cioè lui non vorrebbe mai tirarlo fuori perché in quel caso non potrebbe più esercitare. Ma purtroppo viene costretto a confessare questo male che lui ha, e in seguito a appunto un procedimento che lo riesce a scagionare, gli dà il permesso di continuare a esercitare. E cos'altro succede? Il fatto che il capo che l'ha difeso in tribunale, a livello interno allo studio, lo attacca e gli toglie tutto perché gli ha mentito precedentemente. Perché lui aveva chiesto: tu sei mio pupillo, dimmi tutto, dimmi se c'è qualcosa che non va, sii sincero con me. E lui mente spudoratamente, dice: no, va tutto bene, non ho niente. Quando in realtà sapeva che aveva l'aneurisma già. Dramma. E quindi lì gli toglie comunque uno studio, la macchina, esatto. Sembra che l'abbia già visto. Ma perché tu. I beni materiali è la prima cosa, sì, a cui pensano gli avvocati. Esatto, gli toglie tutto, gli toglie la Porsche, gli toglie l'assistente. E quindi lui si trova in un cubicolo lì a lavorare e gli toglie anche i casi più importanti. Quindi si trova a non poter patrocinare che cause minori. Sta bene, perché adesso c'è la crescita morale. Sicuramente. A un certo punto il capo gli impone addirittura di non poter dibattere in tribunale. A lui viene, siccome lui ha avuto in quest'ultimo periodo in cui aveva l'aneurisma dei grandi successi, gli viene dato un caso da un ragazzo che gli chiede di salvare la madre. Ora non mi ricordo bene com'era la cosa. Tu guarda il caso. E siccome lui non può presenziare, si appoggia a Maggie Decker, che abbiamo presentito, quella che si attacca. Poi dai, dimmi come si chiama. Ah, prima è lei che si attacca, poi dopo lui si appoggia. Già. E quindi si crea questa liaison tra tutti e due. Liaison, questa unione tra di loro, diciamo. Liaison, dovuta. Je suis Catherine Deneuve. Esatto. Ma lei sa il francese? No. Je suis Catherine Deneuve. So solo che je suis Catherine Deneuve, sì, sono minore età. Va bene. Allora, io ora andrei ad ascoltare il pezzo in cui c'è un po' la rottura tra Eli e Taylor Weathersby, che è la ragazza. Dramma. Io però non lo farei partire così, ma prima alzerei il volume. E perché? È perché te lo dico io. Vabbè, io non vi capisco, a voi ragazzi della radio così che fate queste cose. Io mi chiedo, perché papà non se n'è andato? Perché lui è rimasto con noi e ci ha distrutto la vita. Tu non sei tuo padre, Eli. Lo so. Lui è rimasto, imponendoci la sua presenza. Io non credo di volerlo fare, però. E tanto meno a una famiglia. Voglio dire. No. Non devi farlo, è assurdo. Guardami. È molto semplice. Tu mi ami. Lo sai quanto ti amo. Ma non posso farti passare quello che ci ha fatto passare mio padre. Io ti amo troppo. O forse non mi ami abbastanza. È la cosa più giusta. Certo. È un gran sollievo per te, vero? C'è ribaltone. Drammatico. Si mollano. Ma c'è un ribaltone. La prima puntata c'era lei. No, non lo so, è così, è colà, e te soffri dolore, morte. Invece la seconda, no, no, non lo so. E poi io così, colà, soffro dolore, morte. Cioè, strano. Sì, perché lui dice, visto che ce l'ha avuto mio padre, e io so... che sono mio padre. Cioè, che sono mio padre. So che cosa ho passato io, cosa ha passato mia madre, e non voglio farlo passare a nessuno, io ti mollo. Cioè, nel senso, la logica è più o meno questa. Anche se, nel senso, nessuno può prendere una decisione per l'altro, lui dice, la prendo io. E si prende sta responsabilità e la lascia. Ma che bravo, eh? E lei non è d'accordo, a quanto abbiamo sentito. Ma che brava, eh? Tutti bravi. Sì, sì, no, ma bravi veramente, cioè. E vabbè, questo è un po', diciamo, tutta gente brava. Sì, infatti, in questo telefilm. È un bravo telefilm, no? Siamo d'accordo? Più o meno. Allora, io manderei adesso un altro spezzone, no, in cui c'è Eli, c'è Maggie. E cosa succede? E si parla di Dio. Perché? Se te lo dico, cioè, che gusto c'è poi? E che ne so, fammi sentire. Sì, io e Dio abbiamo una relazione abbastanza complicata. Adesso perlomeno ho cominciato a credere in quello che vuole che io faccia. È come se capissi le cose adesso. Cose che erano sempre state lì, ma che non avevo mai notato prima. Come chi ha bisogno di aiuto. Inclusi i giovani soci, molto ansiosi e al limite della competenza. Beh, adesso almeno sono al limite. Insomma? Sei al limite. No. No, però vedi, comunque c'è una stima che reciproca. Bello questo discorso di 31 secondi di Dio. Beh, no, dai. Profondo. Vabbè. Comunque c'è stato. Allora, io manderei un pezzo. Facci sentire un pezzo. Che... annunci sempre tu, perché mi piace lasciarti perché? Annunciare i pezzi. Ma è, cioè, sei anche un bastardo, perché qui c'è, cioè, qui ci sono nomi puntati, no? Io non so chi ma dai, sono. È facilissimo, no? Se, leggo solo uno, che è salsa speciale. Che è special sauce. Special sauce. E prima c'è G-Love, credo. Sì. Si lega G-Love. Sì, sarà quindi. Gianfranco, quindi Gianfranco Love. Ecco, Gianfranco Love special sauce con Won't You Come Home, cioè non tornerai a casa. Esatto. Oppure potresti gentilmente tornare a casa. Con l'uomo col gettone, il ragazzo col gettone, Boy with a Coin. Bella, bella. Poi lui Iron Wine tipo un pelosone assurdo, ma brutto come la morte. Sì, però vabbè. C'ha i capelli come Sim, diciamo. No, di più. No, è peggio, è più peggio. Peloso. C'ha più la barba. Sì, c'ha un po' di tutto. Però i dischi sono belli. Sì, no, ascoltate Iron Wine. Sì, sì, comprate i dischi originali. Originali, nel frattempo, dicevamo. Nel frattempo abbiamo una candidata al quiz. Oh, ma che bello. Mettiamola in diretta. Sì, la mettiamo in diretta. Pronto? Ci sei? Pronto, ciao. Eccola qui. È vero, è una donna. Chi è? Chi sarà mai? Come ti chiami? Annalisa. E da dove chiami, Annalisa? Allora, in questo momento... Anche, non lo so, magari se ci chiami dopo... Dici tutto di te, da dove chiami, di dove sei, che ne so, dici. Chiamo da l'istituto di auxiliatrice. E addirittura, bastava Pisa, cioè. Infatti, vabbè. E vengo da Napoli. Addirittura, ci sei venuta da Napoli? E perché? No, vabbè. Perché? Questo puoi anche perché non dire. Perché la fortuna di essere nata lì. Infatti, viva Napoli. Viva Napoli e poi muori. No, sì, no, viva Napoli e poi muori, non si può sentire. Vabbè, si scherza. Allora, tu sai come funziona il quiz degli spacciaserie, no? Ci ascolti da sempre, da almeno, no? 15 settimane. Ecco, mi ha detto prima che è la prima volta che ha scoperto che ci siamo, che esistiamo come radio e che esiste questo programma. Te penso. Sono riuscito a mantenere il segreto per non so quanti giorni. Maledetto, presidente, noi dobbiamo fare pubblicità. E fai tu pubblicità. Mantieni il segreto. Allora, quindi dicevo prima, tutti già lo sanno in chat, ma funziona che ci sono 3 domande sulle serie TV, perché noi parliamo di serie TV, come hai potuto ascoltare questa sera. Serio. Serio, appunto. E noi ti facciamo la domanda, poi ti diamo 4 alternative, 4 opzioni plausibili e possibili, e tu dovrai selezionare tra queste 4 quella esatta. Quindi, okay. Tutto chiaro? Leonardo, in palio, cosa c'è in palio? Ricordiamo la tazza virtuale non più virtuale, come la direbbe Tommaso. Virtuale non più virtuale. Vero Tommaso? Tommaso? È morto, sì. Tommaso? Ah, ecco. Esattamente, l'ho già detto prima in chat, per cui non. Ah, non ti volevi ma ripetere. Noi lo diciamo, noi perché, lo perché tu però. Non so se lo sai, ma c'è un sottobosco di persone che non entra in chat proprio perché odia le chat e quindi non interagisce. Noi lo diciamo per tutti quanti. Sì. Diciamo. In realtà adesso ci stanno seguendo in centinaia di persone, chi, no? ettolitri di persone. In chat ne abbiamo soltanto 12. Sono? 12? Poteva andare bene. No, 17, dai. Porta male. 17. Entra qualcuno. Entrate. No, qualcuno vabbè. Esca, vabbè. Vattene dalla chat. Ora esco io. Va bene, allora, comunque. Ok, 3 domande con 4 risposte per ognuna, un totale di 12 possibilità ripartite in 3 sezioni. Bravo, però ora facciamo il sunto, comincia. Facciamo il sunto, allora faccio la prima domanda. Vai. Ok, prima domanda. Già, senti come l'ho detto. Dunque, qual è il nome completo di Fonzie, protagonista della serie cult Happy Days? Questo è facile, però ti do le opzioni lo stesso. Ho fatto una puntata su Happy Days, esatto, quindi io lo so. Quindi hai studiato. Allora, A. Arthur Fonzarelli, B. Robert Fonzarelli, C. Tom Fonzarelli, D. Fonzarelli, questa. John Fonzarelli. La prima, se non sbaglio. Dici Arthur Fonzarelli? Sì, l'ha detto. E l'ha detto ed è la risposta esatta. Esatto. Applausi. Vabbè, questa era facile. Facciamo l'applauso. Grazie. Si fa l'applauso anche da solo. Te pensi, ma che brava ospite che ci abbiamo. Bravissima la lista. Prendi un tè, siediti con noi. No, vabbè. Allora, passiamo alla seconda domanda. Prego, fai la seconda domanda. Quale recente serie TV statunitense è incentrata sulle vicende di una compagnia di canto corale? La risposta A è Glee. Quella B, High School Musical. Quella C. La prima, scusami, non ho capito la prima. Scusami, Glee. Sì. La seconda è High School Musical. La terza, Anna Montana. La quarta, caso vuole che sia Eli Stone. Noi non ci sporgiamo, però. Vabbè. Una recente? Aspetta, come la domanda? Ti ripeto la domanda. Quale recente serie TV statunitense è incentrata sulle vicende di una compagnia di canto corale? Dai, è facile. Boh. Dai, è facile. È facile. Se hai ascoltato la puntata di stasera, sai che non è Eli Stone. E quindi già una è un aiuto te la automatico. Sì, te lo diamo noi. Poi ci rimane sì. Glee, High School Musical e Anna Montana. Tra queste 3, considera Anna Montana, sai chi è Anna Montana, no? Lo sai? Sì. E allora mi sa che la seconda. La seconda? Sei sicura? No, non lo so. Vabbè, buttati. O la prima o la seconda, quindi siamo al 50-50. Siamo al 50-50. Ok, la prima, se la seconda è sbagliata. Io non ho detto niente. Devi confermare tu quella che ti senti. Noi sì, aiutiamo, ma non possiamo dire tutto. Già. Vai, la seconda, va? La seconda. Do, do, do. E hai sbagliato. Purtroppo, in onda dal 2009, Glee racconta la vita di una compagnia di canto corale di un minuscolo paese degli Stati Uniti. Concepita in maniera differente rispetto ai classici teen drama, la serie dà ampio spazio alla musica, proponendo in ogni episodio dei piccoli musical. Ci dispiace. Però, per la nostra stima, ti proponiamo anche la terza domanda. Esatto, pensa che fortuna. Che siccome è lunga, te la legge Leo. Come ti odio, ma come ti odio. Terza domanda. Ok, parliamo di una serie televisiva poliziesca improntata a un crudo realismo sia nei temi affrontati che nel linguaggio usato. Ed è stata la prima serie TV statunitense a mostrare due attori ignudi, intenti in un rapporto sessuale. Il personaggio principale della serie è il detective Andy Sipovich. Di quale telefilm stiamo parlando? Risposta A: New York Police Department. B: Law and Order, i due volti della giustizia. C: Criminal Minds, che facevano su Rai 2. D: Intent, che chi cacchio ha mai visto? Che nessuno ha mai visto. Quindi, ecco, appunto. Ma nessuno dei quattro ha mai visto? Dai, almeno dai, uno. Almeno uno. Criminal Minds l'ho visto qualche volta. Ecco. Quindi è l'unico che conosco. Quindi c'è un crudo realismo in Criminal Minds? Avevi visto gente nuda? No. Allora, ok, niente Criminal Minds. La prima qual era? New York Police Department, che di solito è abbreviato in NYPD. Sì, e poi l'altra? E l'altra Law è Law and Order. Sai quella che facevano su Rai 2 anche lei? Che è così. Con gli avvocati. Anche qui è pieno da avvocati. Vabbè, la prima allora. La prima. Attenzione. New York Police Department. E la risposta è esatta. New York Police Department, che sicuramente non hai mai visto negli ultimi anni. Perché? Perché su Canale 5 la mettono tardissimo, perché è veramente cruda, cioè proprio, cioè come mangiare carne viva praticamente, perché comunque ci sono scene di efferata violenza e di realismo improntato proprio al, non allo spettacolarizzazione. È vero, l'ho visto una volta e ho pianto. No, non è vero che ho pianto, ma comunque c'ero quasi. Sì. Un po' sofferto. Manca. Ti manca? Sì. Vabbè, è noiosa. Mi manca. È noiosa. Comunque è tragica e realistica. Comunque sì. Bene, ha risposto a due domande su tre. Purtroppo però non riesce a vincere la nostra tazza. Alla nostra stima. Alla nostra stima, perché ha preso New York Police Department. Infatti io non l'avrei beccata, forse. Questa qui non l'avrei beccata. Un portento. Bravissima Annalisa, ti ringraziamo per aver partecipato al nostro quiz. Torna presto. Grazie. Già ci manchi. Puoi riprovarci alla prossima puntata, non sappiamo. Esatto. Torna ad ascoltarci. Sì. È stato un piacere averti con noi in trasmissione. Sì. Anche allora, intanto noi mandiamo un pezzo musicale. Non lo so, fammi guardare, ora te lo scelgo. Guarda. Guarda, io direi che siccome è un'amica. Di chi? Annalisa, è un'amica che ci ha chiamato, no? Okay. Io le dedicherei un pezzo di Joshua Radin, sì, che è Friend Like You. Cioè un'amica come te. Esatto. Pensa te. Non è che lanci, Piero, che lanci. Non è che ha detto una conoscente come te. No, un'amica come te. Un'amica come te. Proprio tanta roba. Sentiamo un po'. Got the world planned in your mind. People say you cannot do. Well, they don't know a friend like you. You give me two. There ain't no other friend like you. Friend like you. Che dediche, signori. 22:23 su Radio Cicletta, gli spaccia serie. Mamma mia, che serata, che serata, puntata. Che serata. Che gioia inaspettata. Potrei andare avanti con altre rime in ata, ma non lo farò. E vabbè, comunque, noi, visto che questa è una delle ultime puntate che potremo dilungarci fino alle 11, perché dopo di noi ancora non c'è Cinemando. Ma arriverà Cinenando. Cinenando sembra che stia arrivando. Il 7 aprile sembra che sarà con Cinefranco, noi. Cinefranco, Cinecosimo, Cineroberto. E quindi, visto che abbiamo tempo, abbiamo anche già fatto il quiz, ci siamo già levati questo peso dalla coscienza. Sì, io stavo proprio morendo proprio, cioè, con questo senza, quiz. Senza quiz come facevamo? Infatti. E invece possiamo ancora parlare di Eli Stone un altro po', perché la gente non è ancora sazia, vuole ancora sapere. Sempre più allucinazioni, vorrei sempre più se cose. Muore oppure no. Ecco, questa è una cosa interessante. Ma perché muore? Forse te lo diremo, risorge. Forse te lo diremo, forse no. Chi lo sa? Intanto andiamo ad ascoltare un po' un discorso di breve, abbastanza di breve durata, di Eli sulle allucinazioni. Niente canzoni di George Michael, niente campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Draghi che sputano fuoco non alloggeranno nel mio armadio. C'è un drago. No. La TV a casa, no! Ha avuto trauma questa qua. Terremoto, terremoto. Pure. Che sfiga. Ha preso il primo oggetto che gli capitava. Bella papera. Che è appunto una papera da terremoto. Da terremoto, no, è una cosa in ceramica, sai. E cosa c'entra col terremoto? No, nel senso che lui sente sto terremoto, deve salvare la prima cosa che gli capita a tiro e non riesce a salvare il plasma e quindi prende sta papera e esce fuori sul pianerottolo. Sul pianerottolo naturalmente l'allucinazione finisce, incontra il vicino che lo vede lì in pigiama mentre stava facendo la barba con questa papera in braccio e gli fa: bella papera. Brava Giovanna. Non brava. È di quel tipo la sua... Quindi era un'allucinazione. Sì, il terremoto sì, era un'allucinazione. Perché a lui succedono così, capito? Lui sta lì che si dice: dai, non devo avere più queste cose qui, non devo vedere più dragoni, cavalieri, cori che cantano, George Michael sul tavolo del salotto. E intanto gli capitano queste cose. È una serie un po' così, purtroppo. Povero ragazzo. È un ragazzo un po' sfigatino, l'abbiamo povero. Già detto. Infatti. Nel frattempo, cosa succede? Che in uno dei casi di cui stavamo parlando prima, in cui lui con Maggie si fa aiutare, no? Per uno di questi primi casi qui, quando dopo vincono la causa, piangono. No, Maggie, così presa da uno slancio nell'impeto, lo bacia. E subito dopo c'è della cerimonia. Che ho fatto? Che ho fatto? Sia l'uno che l'altro, una cosa succede. C'è dell'imbarazzo. E questo si protrae anche nella settimana successiva. E quindi noi adesso ci andiamo a gustare questo pezzo in cui Maggie fa finta di nulla, non riesce nemmeno a parlare di quello che è successo. Ciao, novità? Vediamo, un'altra aspirante starlet si è fatta fotografare mentre scendeva dall'auto senza mutandine e siamo ancora in Iraq. No, parlavo di te. Ti comporti in modo strano da una settimana. Strano perfino per te, il che è strano. Io sto benissimo, ma grazie per il tuo gentile interessamento. Cerchi di evitarmi? Mi sembra che stiamo parlando, quindi non mi ci sto impegnando molto. Ti comporti in modo strano dal giorno del bacio. Shh, ma... perché non metti un annuncio in bacheca? Prima di tutto, non mi comporto affatto in modo strano dal giorno del... coso. Il coso? In secondo luogo, non ci penso neanche un po' al coso. Io ho già un ragazzo. Bene, fantastico, perché mi sembrava che fossi arrabbiata. Arrabbiata? Perché dove... Lei... volevo parlarti prima di vedere Solinsky, ma ho l'impressione di interrompere qualcosa. No, non interrompi proprio niente. Questa era Taylor, la ex ragazza che è entrata e ha cominciato a chiedere delucidazioni sul caso. Bene. Solinsky. Bene. E quindi hai visto, c'è questa tensione. C'è tensione amorosa, sai? Sì, che ancora non è espressa e che non possiamo esprimere perché altrimenti... Spoiler! Appunto. Tutte le sue forme e colori, cioè proprio veramente... drammatico. Eh sì. Tommaso intanto che fa? Piange. Tommaso, è Feral Gun? Che succede? Io cosa faccio? Ti abbiamo sentito in... scrivevo spoiler. Ah, scrivevi spoiler. Quindi sì. Pigiava con forza il tasto F4. F4. Il tasto F4. Esatto. Sapessi che cosa... E poi, voglio dire, se non pensavamo che... E poi, infatti... Discorsi senza senso solo qui sulla bicicletta. E poi vorrei dire anche sulla scopa. Ma va bene. Leonardo. Cosa? Cosa hai detto? Parlavo anche quello lì sulla scopa. Infatti sulla scopa non si dice. A Pisa poi non si dice. E adesso volevo proporvi un altro ennesimo. Sarà spezzone. L'ultimo, voglio sperare. Guarda, è il penultimo, poi dopo andiamo tutti a casa. Ah sì? Se Dio vuole. Ma perché? Cioè, io ormai ho visto tutto Eli Stone qui. No. Le immagini davanti. Guardati. Tra l'altro è un bel ragazzo, voglio sperare. È brutto. Ora Tommy ci darà troverà una diapositiva, ce la manderà con un link sulla chat, mentre intanto qualcuno scrive: voglio andare allo piano. Ci andrai, voglio dire. Non di Eli Stone, Di Eli Stone, trovaci un fotogramma, un qualcosa, un'immagine che il nostro curiosone qui, ospite non edotto nella serie TV, infatti, non so vuole. Ecco, inizio, guarda, all'istante ce l'ha proposto e ora te lo faccio vedere. Vediamo. Dun, dun, dun, dun. Ecco, la rete va un po' a rilento, ma ah, eccolo qui. Ma è bruttissimo. Beh, dai, su. È non veramente è orribile. È ora. È un tipo. Ma no, sembra un. E poi è pieno di. E quelle. Non lo so. Povero John Lee Miller. Abbastanza brutto. Allora, visto che stiamo mandando link, sì. Mandiamo anche un'immagine della fidanzata. Ecco, sì. Bravo, bravo. Vediamo un po' la fidanzata. Ma è la solita bellona lei. La solita bellona. A me piace di più Maggie. Chi è Maggie? Questa è la fidanzata, ecco. Ma è vecchia? Beh, non so che età abbia. Beh, sembra vecchia. Sì, dicevo appunto, io sono per le più giovani. Così fosse mentre... per pedofilo, però non è il caso. Invece... Effettivamente non ci fai bella figura. Non ci faccio bella figura, però... Invece cosa? Invece l'amante, lì? Wow. La mia è quest'altra. Ah. Sì, mi hai mandato... Giulio Gonzalo. Esatto. Gonzalo, no? Apprezzo anche Leo, anche il presidente vota per una bella giovine. Sì, sì, poi Photoshop fa miracoli, e quindi sembra che non abbia nemmeno una ruga, tu pensa. Vabbè, magari 2 anni fa non ne avevo. Due anni fa non ne avevo, poi adesso improvvisamente. Comunque, dicevo che a un certo punto Eli porta allo stremo. Pensavo diventasse una motosega. No. Appunto, litiga, per farla breve, con il dottor Chen, cioè con Frank Lebowski. Perché? Perché ha dei dubbi profondi sulla fede, perché non te lo posso spoilerare adesso così, te lo faccio ascoltare. Ecco. Fammelo ascoltare. Sì. I disegni di Dio sono misteriosi, non sta a noi capire le ragioni. Un Dio che vuole che le persone credano in Lui dovrebbe anche offrire qualche segnale, qualche prova della sua onnipotente esistenza. È questa la fede, Eli? Credere in assenza di prove. Io continuo ad aspettare delle minime conferme che un Dio esista. La conferma che non ho distrutto la mia vita per niente. Credi veramente che ci fosse più significato nel tuo stipendio che nelle persone che sei riuscito ad aiutare? Avresti potuto fare questo senza ho la fede? Ho fatto tutto senza la fede. L'ho fatto con la mia laurea in legge. Quella su cui ho sputato sopra ieri. E tutte le cose che hai imparato su di te? Tuo padre, me, è stata tutta una serie di coincidenze? Se questa è una prova che Dio è dietro tutto quello che mi succede, allora significa anche che Dio voleva che ferissi le persone che mi amano di più. Che voleva che spezzassi i loro cuori. E che infrangessi la legge, voleva che buttassi le persone fuori dalle loro abitazioni. Mi dispiace, amico, non è questo il Dio in cui voglio avere fede. Capisco quanto sia non difficile. Non hai neanche cominciato a capire. Nulla di questo è reale. Quello che è successo non dipende da Dio. La causa di tutto è stato il mio aneurisma ed è il momento di farla finita. Devo trovare un chirurgo per far togliere questa cosa dalla mia testa il più presto possibile. L'intervento potrebbe ucciderti. Se non mi libero dell'aneurisma, non avrò più ragione di vivere comunque. Come Matrix questa cosa? In che senso? No, niente di questo è reale. Cosa è reale? Cosa non lo è? Vabbè, ma le allucinazioni ti portano a dire niente di questo è reale, però allo stesso tempo, visto che ti conducono attraverso coincidenze o un messaggio vero, la soluzione dei suoi casi legali, a un certo punto uno si chiede, cioè, cosa è reale, cosa non è reale. E pillola quindi, rossa o pillola blu. Esatto, quindi in un certo senso è molto Matrix. C'è del dramma. Sì, un legal drama, come appunto dicevamo in principio. Vedi, anche Tommaso si dice d'accordo. Tommaso? Sì, dici sì, è molto, cioè, in fondo è abbastanza drammatica come serie, cioè, a parte svegliare momenti molto esilaranti, poi c'è comunque tutto il problema di questi Eli che non sa più distinguere a un certo punto la realtà dall'allucinazione. Esatto. Eh sì, è un po' questo il tema che porta avanti tutta la serie TV. E, io a questo punto sarei per mandare un ulteriore pezzo musicale e poi fare un ultimo lancio su un ultimo estratto dalla serie TV e poi salutare tutti. Sei sicuro? Dai, c'è tempo. E no. Non c'è nemmeno Cinemando. Sei sicuro? Guarda. Non c'è. No, Cinemando, infatti siamo liberi. Oggi non c'è, quindi siamo telefoniamo, liberi. Telefoniamo, mi arriva un messaggio. Oh, non c'è Cinemando. E quindi... E allora cosa ci fai sentire? Io vi farei sentire Victorious. E chi è? No, Victorious è la canzone. Ah, ecco. E il gruppo che invece è The Perishers, cioè chi sono io? Quelli che morono. Non lo so, chiediamo a Tommaso, che è il nostro esperto di lingue. Esatto. Tommaso. Tommaso. The Perishers. The Perishers. Ora te lo scrivo in chat, così capisci. Te lo dico fra un attimo, appena me lo scrivi. Eccolo qui. Sarebbero i peritori, noi diremmo così. I morituri. Ma, senso, è proprio questo il significato. Qualcuno in chat... Ora mi informo sul significato profondo. Di... Va bene, mentre ti informi, mandiamo Victorious. Sì, e poi cerchiamo anche noi su Wikipedia, come farete tutti quanti in questi 3 minuti e 10. Preso lui, sì, no, vittorioso della musica. Io l'ho scelta, voglio dire, cioè, sì, l'hai scelta, che significa? L'avrei trovato, dice, la colonna sonora della Stone. Ma questa è della colonna sonora, sì, tutto di Eli Stone. Noi siamo abbastanza coerenti nella nostra scelta delle canzoni da mandare in trasmissione. Sì, me lo quasi dice sempre. Anche mia madre, ma certo, siete proprio coerenti nella scelta. Siamo fedeli alla linea, sì, infatti. Come direbbe Giovanni Lindo Ferretti, cantante del CCP. Esatto. E quindi, insomma, hai trovato cosa significa questa cosa di The Tommaso. Perishers? Come si traduce Tommaso The Perishers? Allora, letteralmente significa... Mi sentite? Sì. Pronto? Vai. Ok. Letteralmente significa deperiti. Deperiti o deteriorati. Marci. Credo che... Esatto, qualcosa marci, del genere, sì. Anche se non che sia proprio... Sì, credo che sia un po' questa la... Marci vittorioso. Reale. Bene. Sì, c'è un po'... Scelti un po' tenso. Li ho scelti io, certo. Comunque, stavo leggendo sui Perishers, che in realtà molte loro canzoni sono all'interno di serie televisive. Ah, sì? Vedi che hanno successo nel One Tree Hill, Veronica Mars, Calix Ypsilon, Grey's Anatomy... È perché hanno fatto un unico album che si chiama Original Sound. La sentiremo spesso. Come faccio a ridere la gente? Va bene. Comunque... Insomma, siamo arrivati addirittura d'arrivo. Sì, infatti, a partire dai Perishers, io direi... Ma a parte i Perishers, qual è il cantante di cui abbiamo parlato di più in questa serie TV? Protagonista Franco quasi. Califano, ovviamente. No, non è Come Franco no? Califano. Dai. Ma è Giorgio Michele. È George Michael. Siamo lì, più o meno. Ora, nel 9° episodio della prima stagione di Eli Stone, special guest, cioè proprio lui, lui proprio che recita, c'è George Michael. E infatti la cosa parte che Eli, mentre è ad una riunione, ha un'allucinazione. C'è il suo capo che canta, sai, cose strane che vede sempre lui, così, gente che canta, che comincia, gente che conosce il reale, che si mette a cantare mentre sta lì al pianoforte, insomma, robe strane, impossibili. E a un certo punto il suo capo gli presenta, ecco a voi, George Michael, e lui si gira, vede George Michael, ma dice no, è l'allucinazione, dice non sei reale. E questo è appunto lo spezzone che ora andiamo ad ascoltare, e godetevelo tutto perché dura un paio di minuti. Non è vero. Che cosa non è vero? Lei è Eli Stone? Io sono George Michael. Potrebbe smettere di toccarmi, per favore? Mi scusi, è che lei, sa, è una visione molto compatta. E lei è una persona molto strana. Almeno non sono un'allucinazione. Beh, lui mi vede. Bradley, mi vedi parlare con qualcuno? Una persona vera in carne e ossa? Ma certo, signore. Lui è buono. Sì, mi capita sempre. Però io ho messo gli occhiali per primo. Comunque, Bono e io abbiamo una cosa in comune. Cioè, siamo entrambi perfettamente compatti. Mi dispiace di averle fatto perdere tempo, signor Stone. No, la prego. Rimanga. Mi scusi, il fatto è che io non... Di solito non ricevo visite come questa. Che posso fare per lei, signor Michael? Mi chiami George. Vorrei che si occupasse di un caso per me. Questa ragazza è stata espulsa dal liceo perché ha diffuso una mia canzone dall'altoparlante della scuola durante un seminario sull'astinenza sessuale. Certo, era anche nei notiziari. E qual era la canzone? Ah, I Want Your Sex. Mi dispiace, non sei il mio tipo. Scherzavo. Comunque, vorrei fare qualcosa perché venga riammessa. Coprirò tutte le spese legali, signor Stone, è chiaro? Chiamami Eli. È molto generoso da parte tua. Ovviamente non vorrei... Non potrei mai dirti di no, per cui... Se posso chiedertelo... Mm? Perché vuoi me? Perché sei venuto da me? Beh, ora direi che sono io quello strano. Ma... Vedi, ho fatto un sogno la notte passata e nel sogno mi ero completamente perso. E qualcuno mi ha detto che dovevo trovare un avvocato di nome Eli Stone. Cioè, insomma, questa cosa non ti è piaciuta? No, è molto profetica. Come profetica? Sì. No, vabbè. Molto che? Non lo so, cioè c'è lui che c'ha nel sogno. Vai dai, Eli Stone. Beh, sono molto legati, sono profondamente legati. Guarda, secondo me è tutta una trovata dei sceneggiatori per ficcarci George Michael e far spiccare gli ascolti. E vabbè, è questo. E questo ci sta. E quindi l'hanno un po' raffazzonata, perlomeno la prima parte in cui dovevano giustificare il fatto che lui andasse da Eli. E quindi hanno messo questa cosa del sogno. Però, nel senso, ci sta un po' il fatto, il ribaltamento delle parti, no? In questa puntata, almeno in questo episodio. Quindi George Michael sogna Eli Stone che sogna George Michael. Esatto. Assurdo. Sì, ebbene, succede anche questo in questa bellissima serie TV che noi stiamo propagandando qui da almeno... Diverse ore. Sarà ora andare via. Sono 2 ore che stiamo parlando qui di Eli Stone. Te penso. È venuto in mar di testa. Vabbè, però abbiamo quasi finito. Ora ti direi, vediamo se sei stato attento. Ma questa volta secondo me è stato attento. Eh beh, qual è la canzone di George Michael che... Ci fanno anche la battutona. Qual è? I Want Your Sex. Allora io direi, perché non mai... Non sei il mio tipo, dovresti dire. Direi sempre quello lì. Però perché mai non mandarla adesso, che mi sembra il momento adatto. Ma cosa ne dici? No. Giorgio Michele, George Michael con... I Want Your Sex. Guardala. Insomma, cioè nel senso, io l'ho messa d'ufficio. Se volete sapere la verità, siccome questo episodio l'ho guardato oggi pomeriggio, ho detto...